Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma se io e te incominciassimo a raccogliere marmotte, ce le portiamo anche qua io in studio. Io raccoglierei camosci. Camosci. Una bella camosciara. Tu hai fatto una tesi sui camosci. Sì. Io li adoro. Però tanti camosci in studio. Va bene, benvenuti a Mebius. Adesso incominciamo con i titoli e poi arriviamo alle raccolte di animali. Tra le tante manie che abbiamo, c'è anche quella di accumulare animali. E si tratta di un disturbo compulsivo. La cannabis per usi terapeutici ha effetti positivi dimostrati scientificamente. In molti paesi si utilizza regolarmente, mentre in Italia l'uso è ancora controverso. A Roma si è concluso un convegno di giovani amministratori pubblici. Il tema: come è difficile mettere in atto progetti in campo ambientale. Far partecipare i cittadini alla progettazione dei servizi informatici. A Trento si tenta una strada di grande coinvolgimento del pubblico. Dunque, niente marmotte, niente camosci, però... Beh, magari ci saranno i collezionisti di marmotte. Di camosci, di vivi, marmotte. Vivi, ascoltatori, vivi, tutti vivi, animali tutti vivi. No, invece, no, seriamente. Invece, sì, seriamentissimo. Allora, recentemente se ne è parlato in un incontro a Milano e c'è un nuovo profilo. Gli accumulatori di animali. Sì, persone sono. Sì, in realtà credo che sia... Boh, ci siano delle patologie che sfiorano. Qualcosa, ecco, che non va, deve essere. Perversione, certo. E si sta cominciando a studiare anche in Italia. È un fenomeno piuttosto diffuso nei paesi anglosassoni. E invece in Italia si sta cominciando a studiare, soprattutto in università a Milano. E adesso sentiamo le due protagoniste, che sono state protagoniste dell'incontro e che stanno effettuando ricerca su questo campo. Allora, diamo il benvenuto, direi, a Emanuela Prato Previde. Buonasera. Buonasera. Lei è docente di psicologia generale all'Università degli Studi di Milano, ed Elisa Colombo, anche lei benvenuta. Buonasera. È dottoranda di ricerca presso lo stesso dipartimento in neuropsicobiologia. Ecco, voi avete stilato, come dire, un'introduzione su quella che è il nuovo fenomeno dell'accumulatore di animali e poi vedremo, andando avanti nell'intervista, che ci sono proprio delle categorie di accumulatori. Sono di diverso tipo. Prato Previde, iniziamo con un'introduzione. Intanto, chi sono, cosa sono? Allora, io direi che per fare un'introduzione e arrivare poi al problema degli accumulatori da noi, bisogna pensare all'accumulo come a una incapacità di non tenere tante cose. Quindi possono essere oggetti o possono essere animali. Quindi è un comportamento patologico che determina l'accumulare oggetti. Spesso sono oggetti di vario genere. Pensate che può essere accumulo di spazzatura addirittura, piuttosto che di derrate alimentari, piuttosto che di riviste, di giornali, di oggetti disparati, e in una certa percentuale di casi, che non è altissima ma c'è, vengono accumulati animali. Quindi in realtà non sono oggetti non viventi ma individui viventi che vengono tenuti ad esempio in casa, magari in monolocali o magari anche in grandi appartamenti, ma sono in una quantità estremamente numerosa e spesso in condizioni... Quindi non è una cosa positiva, è un comportamento patologico, ed è una non capacità di mantenerli. Sì, si chiama proprio, proprio come hoarding, accumulatore. È un comportamento patologico per cui l'individuo, poi vedrete dopo le diverse tipologie, comincia ad accumulare animali, ad esempio può avere 50-60 gatti magari in un monolocale. E questi 50-60 gatti sono malnutriti, non sono trattati bene, cioè o meglio non sono seguiti, non sono accuditi, all'individuo non riesce a darli via, non riesce a liberarmene, ne perde il controllo completamente. Cioè della patologia non fa parte tenerli al meglio possibile, sanno perfettamente, tra virgolette, sanno che li accumulano e non li curano. Diciamo che averne 50-60 è già un comportamento che muove verso l'accumulatore di animali. Se però uno ne ha 50-60 in una villa magnifica con un giardino stupendo, nessuno, è perfettamente seguiti, a questo punto il discorso può essere diverso. Okay. L'animal hoarder è una persona che non riesce più per diversi motivi a seguirli in modo adeguato. Quindi è proprio una patologia, un disturbo. Però li tiene, li tiene. Sì, e difatti nasce inizialmente come il rilevare ad esempio cattivi odori, legati ad animali morti in casa, piuttosto che a non pulizia, feci, escrementi di animali, così, che fanno partire il controllo e si scopre il fenomeno. Disastro. Ecco, ma mi scusi, Prato Previte, cani e gatti c'è evidente, poi? Ci sono anche accumulatori di animali esotici strani? Sì, diciamo che per quello che si sa ci possono essere esotici strani, sono soprattutto pappagalli. Ah. Piuttosto che pappagallini, piuttosto che uccelli, quindi sono soprattutto cani e gatti con un accumulo anche di qualche specie di animali esotici. E ovvio non è banale accumulare, come dicevate voi, marmotte, il camosci, certo. Però già serpenti. Però pappagalli, ad esempio, sì, uccelli canarini e così, è vero, Elisa Colombo, prima del traffico, se ci fa una breve introduzione del profilo dell'accumulatore, quali sono i criteri generali che ci dicono quello lì è un accumulatore, e poi entriamo nel dettaglio. Secondo la letteratura americana, di un problema di accumulo di animali, quando la persona ha un gran numero di animali che supera la capacità di prendersene cura, per cui è essenziale che la persona fallisca nel mantenere degli standard sufficienti di nutrizione, igiene e cure veterinarie per gli animali. Spesso inoltre la persona non ha consapevolezza del problema, per cui non riconosce le condizioni degli animali che versano in stato di malattia, di inedia o perfino di morte e non riconosce le condizioni di deterioramento dell'ambiente, per cui la mancanza di igiene è tale che alcuni locali, come ad esempio la cucina e il bagno, sono resi inutilizzabili proprio dalla presenza degli animali e degli oggetti a loro legati. Sì. E tutto questo causa un disagio personale e una compromissione del funzionamento sociale e lavorativo della persona. Mi scusi, non se ne rende conto nonostante sia di un'evidenza spaventosa, quindi c'è proprio una dissociazione totale. Esatto, ed è qui che si entra nella patologia e nella gravità del disturbo psicologico, proprio per la mancata consapevolezza totale o parziale. Ecco, sono stati stilati proprio dei profili, il badante, il salvatore, lo sfruttatore. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Tanti tipi di accumulatori, allora. Sì, torniamo a parlare di accumulatori di animali. Darei la parola a Elisa Colombo, che ci stava raccontando appunto che esistono proprio dei profili veri e propri. Io qua ho un documento che lei mi ha mandato, il badante, il salvatore, lo sfruttatore. Che personaggi sono questi? Esatto, sono stati individuati tre profili di accumulatori. Il primo è quello del caregiver sopraffatto. Badante è una traduzione di caregiver che indica proprio una persona che offre cure agli altri, che si identifica nel ruolo di dare cure a qualcuno. Generalmente questa è una persona sola che ha un forte attaccamento emotivo agli animali, la cui autostima dipende proprio dall'accudire gli animali. A causa di difficoltà improvvise, come ad esempio problemi economici, problemi di salute, può non essere più in grado di prendersi cura dei propri animali in maniera sufficientemente buona, e questo porta al disturbo di accumulo, cioè proprio al fatto che la persona continua ad accogliere animali in casa per il fatto che vuole offrire loro cure, ma non riesce a mantenerli. Certo. Esatto. In genere queste persone hanno una parziale consapevolezza del problema, per cui si mostrano collaborativo di fronte a chi evidenzia una situazione problematica. Esatto. E invece il salvatore? Il salvatore è una persona che sente di avere la missione di salvare gli animali, per cui ha un comportamento compulsivo legato al fatto proprio di accoglierli nella propria casa o di cercarli attivamente attraverso annunci o siti internet di rifugi. Spesso, al contrario del badante, è una persona che non è isolato dal contesto sociale, ma fa parte anche di organizzazioni, ad esempio per la tutela degli animali, come ad esempio canili, rifugi, associazioni animaliste. Una volta che accoglie gli animali, non li dà in adozione perché è convinto di essere l'unico in grado di prendersi cura degli animali, e per questo motivo non è collaborativo con chi cerca di aiutarlo, il problema, di aiutarlo. Entrambi questi qui hanno abbastanza uno sfondo, come dire, bonario, positivo. Invece lo sfruttatore mi pare che sia più negativo come profilo. Sì, quello dello sfruttatore è un profilo abbastanza pericoloso e preoccupante, in quanto si tratta di una persona che ha delle caratteristiche di tipo antisociale, per cui manca di empatia nei confronti delle persone e degli animali, spesso ha una personalità narcisistica o ha caratteristiche nettamente sociopatiche. Questo fa sì che accumuli gli animali per soddisfare un bisogno personale, ad esempio un bisogno di controllo, e è difficile rendersi conto di un problema di accumulo quando si ha a che fare con questa persona, perché è una persona molto astuta, intelligente, in genere anche manipolatoria, per cui riesce a far passare il messaggio per cui lui è una persona estremamente competente nel prendersi cura degli animali, organizza strategie per evadere i controlli, incluso quello di distribuire gli animali anche ad amici, conoscenti, si mostra molto aggressivo e non è collaborativo con chi interviene. Ma ha bisogno di controllo nel senso che si sente un capogregge, capobranco praticamente? Ha bisogno di controllo in generale sull'ambiente e sugli altri, per cui quali individui sono più facili da controllare rispetto agli animali, che non possono opporsi a quello che noi decidiamo per loro. Sì. Qui la ricerca di questo fenomeno e il fenomeno stesso nei paesi anglosassoni è molto diffuso, tanto che addirittura in America ne fanno oggetto di trasmissioni televisive, nei programmi satellitari si vedono spesso. In Italia come siamo messi? Boh, le trasmissioni televisive forse arriveranno, forse no, ma il fenomeno è diffuso? In Italia non si sa ancora quale sia la diffusione del fenomeno, perché non è mai stato direttamente studiato nel nostro paese. Noi abbiamo iniziato a cercare di stimare la prevalenza del disturbo tramite collaborazioni con il Corpo Forestale dello Stato e la ASL, che sono generalmente coloro a cui giungono le segnalazioni dei casi di accumulo. Prato Previde, invece lei cosa ne pensa di questo fenomeno così diffuso di portare appunto in TV questi casi che in realtà così semplici da curare non sono? Io penso che vada studiato e vada indagato, ma in modo molto serio e nel rispetto soprattutto delle persone che sono delle persone malate. Quindi penso che ci sia il rischio di questi programmi televisivi di catturare l'interesse perché è una persona strana, una persona diversa, sottovalutando la drammaticità del fenomeno, sminuendolo e non dando aiuto di fatto alla persona, perché in realtà viene fatta una pubblicità e viene anche semplificato il fenomeno, perché in realtà è un fenomeno che quando si cura non è che lo psicologo arriva lì e con la bacchetta magica risolve il problema. Ci sono delle terapie specifiche, sono serie, sono impegnative, ci vogliono delle persone competenti, non è che in due puntate l'order è guarito. Per cui io non sono tanto favorevole, ritengo che nel nostro paese, che non siamo americani, forse potremmo affrontarlo in una maniera diversa. Evitarlo. Va bene, grazie Colombo, grazie Prato Previde, in bocca al lupo per la vostra ricerca che appunto è all'inizio. Esatto, grazie a voi. Buon lavoro. Grazie a voi. Parliamo di cannabis. Parliamo di cannabis, sì, di cannabis, però non per uso ricreativo. Ricreativo, sì, esatto. Ma per uso terapeutico. Terapeutico. Perché questo è il tema di mente e cervello del numero di giugno, quindi per chi volesse si trova ancora in edicola ancora per qualche giorno. E qui con noi al telefono abbiamo un'amica, nonché collega, divulgatrice scientifica, Daniela Ovadia. Buonasera. Ciao, buonasera, Daniela. Ciao Daniela. Tu hai scritto all'interno della rivista un bel articolone centrale proprio sull'uso terapeutico della cannabis, che in Italia diciamo non è molto diffuso, ma all'estero invece pare sia proprio, soprattutto in Canada, sta andando avanti. Sicuramente più diffusa che da noi, sia negli Stati Uniti, in alcuni stati in particolare, sia in tutto il Nord America, quindi anche in Canada. In Europa anche abbiamo alcuni stati dove la usano più che in Italia, per esempio l'Olanda. Per capirsi, insomma, si trovano dei medicinali, dei farmaci a base, ci direi, di tetracannabinolo che si trovano in farmacia. Dunque, sì, cominciamo a spiegare cosa intendiamo per farmaci. Il THC, il tetraidrocannabinolo, è la sostanza attiva contenuta all'interno della marijuana, cioè delle foglie di cannabis sativa, che quasi tutti conoscono perché è molto usato come droga a uso ricreativo. Però da molti anni si sa anche che questa sostanza, che è molto simile ad alcune sostanze che produciamo naturalmente nel nostro organismo e che vengono per l'appunto chiamate endocannabinoidi, hanno questa sostanza ha un effetto per esempio antidolorifico e per esempio antinausea, in particolare per le nausee centrali, cioè che dipendono da un meccanismo cerebrale come per esempio quelle dovute alla chemioterapia. Quindi la scoperta di questi effetti della marijuana è stata, come potete immaginare, quasi casuale, nel senso l'uso ricreativo di questa pianta è molto diffuso e alcuni malati di cancro si sono accorti che questa sostanza dava loro sollievo. Da allora sono stati fatti numerosi studi in tutto il mondo che hanno dimostrato che questo effetto esiste. Ecco, questo è un po' il punto. Ci sono delle ricerche che dimostrano, risultati scientifici alla mano, che in effetti sono efficaci. Sì, funziona su queste due indicazioni, per queste due indicazioni, ovvero alcune forme di dolore e la nausea da chemioterapia. Cosa funziona però? Questo è anche importante. È vero che la sostanza attiva è il tetraidrocannabinolo, ma è anche vero che alcune case farmaceutiche che hanno tentato di estrarre o sintetizzare questa sostanza e infilarla all'interno di una pastiglia non hanno ottenuto coi pazienti gli stessi effetti che si ottengono utilizzando la marijuana nel modo più comune, cioè fumandosela. E quindi quando intendiamo farmaco a base di queste sostanze dobbiamo dire che certamente sono farmaci, nel senso che sono registrati come tali, ma non hanno la forma di una pillola, sono in genere delle palline compatte di marijuana che hanno una particolarità, cioè sono titolate, cioè vengono vendute perché in sacchetti in cui è indicato all'esterno, come si fa per i farmaci, che dosaggio di sostanza attiva la persona può aspettarsi di avere all'interno di quel pacchettino di foglie. Questo perché ovviamente la quantità di sostanza attiva presente può variare moltissimo a seconda di come si coltiva la pianta, quindi è molto importante quando la si usa a fini terapeutici poter dire al paziente: stai prendendo una cosa né troppo leggera né troppo pesante. E qualcosa si sa invece sulle controindicazioni, cioè ci sono delle conseguenze negative, delle dipendenze? Sì, si sanno tantissime cose. La marijuana di per sé è una sostanza che induce poca dipendenza in termini fisici, nel senso che contrariamente ad altre sostanze stupefacenti, la marijuana non induce un bisogno fisico di assumere una dose successiva, ma induce una fortissima dipendenza psicologica, come ben sanno per esempio i genitori di adolescenti un po' in crisi, in cui l'uso di queste sostanze può veramente sfuggire di mano proprio per la forte dipendenza psicologica. Inoltre, ed è questa la ragione per cui è importantissimo distinguere tra uso terapeutico e uso ludico, ricreativo di questa sostanza, vi sono chiare indicazioni che le persone con un rischio di sviluppare psicosi di tipo schizofrenico, ossessivo, insomma forme gravi di psicosi, possono provocare la comparsa dei sintomi psicotici se utilizzano questo tipo di sostanze. Quindi quando si dice la marijuana fa venire la schizofrenia, che è un po' una voce che girava, tempo, sì. In realtà è in parte vero, ma nel senso che sono persone che sono o geneticamente o per ragioni biochimiche o anche ambientali ad alto rischio di sviluppare una psicosi grave, e l'uso eccessivo di marijuana fa venire fuori prima del dovuto, lo esalta oppure lo provoca, perché magari invece la persona in qualche modo avrebbe potuto compensare con elementi ambientali il rischio di sviluppare la malattia. Quindi certamente chi ha per esempio familiarità per malattie psichiatriche dovrebbe assolutamente non utilizzare. Starne lontano. Rapidamente in conclusione, Daniela, abbiamo visto che insomma in altri paesi si procede con sperimentazione, con applicazioni, in Italia? Dunque, in Italia la marijuana è prescrivibile per uso terapeutico con una serie di difficoltà non indifferenti di tipo burocratico, in particolare per averla, poiché nessuno la produce in Italia, è necessario per l'appunto importarla dall'Olanda, dove c'è l'unica azienda che la produce e l'ha registrata come farmaco. Per far questo bisogna fare delle richieste particolari, il medico deve riempire dei formulari particolari che vanno depositati all'ASL e i tempi di attesa sono molto lunghi e possono arrivare anche fino a 6 mesi. Inoltre il costo della tutta la procedura e anche del farmaco è a carico del malato. Quindi tutto questo rende estremamente complesso l'uso di questa sostanza ed è la ragione per cui molti medici consapevoli delle possibilità offerte da questa sostanza cercano di ottenere una normativa meno restrittiva. Certo. Problema principale è la modalità di somministrazione, perché se si potesse infilare tutto in una compressa probabilmente ci sarebbero meno remore psicologiche a rendere libero il commercio di questa cosa come farmaco. Certo. Il fatto che si debba fumare evoca, come dire, uno stigma tutto da tossico. Però comunque sarebbe meno efficace, come ci spiegavi prima, va bene. È meno efficace, hanno dimostrato che è meno efficace perché probabilmente nella pianta e nel modo di inalarla ci sono delle altre sostanze non ancora del tutto chiarite che agiscono in modo sinergico col THC. Va bene, grazie Daniela, buon lavoro per chi volesse approfondire Mente Cervello di giugno. Grazie a voi, arrivederci. Ciao Daniela, a presto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Green economy, ovvero economia verde, passare il testimone, incontro con decisori pubblici under 35. È il titolo di un convegno che si è appena concluso a Roma, promosso dal Centro Studi Edizioni Ambiente in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il tema di questo incontro era sentire dei giovani amministratori locali, quindi di comuni, province e regioni, con le loro idee rispetto alla green economy e cercare di capire che visioni hanno e come si trovano a maneggiare questo tipo di progetti. Sono intervenuti in tanti. Noi ve ne portiamo in onda 3 e incomincerò con Stefano Ambrosini. Buonasera Ambrosini. Buonasera. Lei è assessore all'ambiente e all'innovazione a Gardone Riviera? Sì. Di area, perché dobbiamo dirlo, no? Di area politica, cos'è, tra l'indipendente? Sì, la mia giunta è una giunta PDL Lega, però io sono eletto come indipendente, come un piccolo comune, diciamo, contano di più le persone certo. Dei loghi, quindi è una lista abbastanza civica. Una lista sostanzialmente civica. E poi abbiamo Ignazio Nicola Finco, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Lei invece è Lega Nord, è consigliere alla Regione Veneto e ha una delega alle Smart City e all'ambiente, che cosa? Sì, sono presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale. Mi pare che voi ci testimonierete, anche con Mirko Tuttino, che sentiremo fra poco e che non è ancora in linea, ci testimonierete che qui avere progetti e portarli avanti non sono due cose che vanno insieme. Cominciamo dall'esperienza di Ambrosini. Il progetto sulla green economy che abbiamo portato avanti era un progetto sperimentale su base nazionale in merito al compostaggio collettivo. Questo progetto nato da un'idea e da una visita a Mjölby in Svezia nel 2010 ha portato alla realizzazione di un gruppo di lavoro sul bacino del Garda Bresciano che si è finalizzato in un bando Life Plus Waste consegnato proprio questo martedì, che permetterà alla prossima amministrazione, quindi un progetto non basato sul vincolo di mandato ma sull'ottica futura, di realizzare un bacino sperimentale per il compostaggio. Sì. Le problematiche principali che si sono verificate durante la redazione del progetto sono state quelle di trovare innanzitutto i partner disponibili a realizzarlo. Sì. Quindi partner istituzionali o meno. Sì. E poi soprattutto l'aspetto normativo, cioè, come ho specificato nel convegno, la realizzazione di un progetto che sulla carta è abbastanza semplice, quindi l'introduzione di macchine per il compostaggio, si parla di macchine di una grandezza di 3 metri per 1, quindi piccoli impianti di trattamento, necessitano di autorizzazioni macchinose che richiedono anni di lavoro per la loro realizzazione. Ecco, anni, lei dice. Sì, come ho citato prima, il progetto nasce nel 2010, io sono stato in Commissione Ambiente alla Camera e al Senato in audizione al 2011 per la modifica del DL Ambiente, siamo a metà 2013 e non si vede le autorizzazioni niente. Non ci sono tuttora. Ma perché sono tantissime? No, la problematica sta nel fatto che non c'è una certezza nella competenza dell'istituzione che deve redare l'autorizzazione, è ministeriale, regionale, provinciale. Quindi molte volte succede che certe province sono più celeri di altre nel ridare le autorizzazioni, in altri casi c'è la problematica di conflitto di competenze che rallenta tutte queste procedure burocratiche. Cioè, mi fa già capire, non riuscite ad avere un interlocutore. Però la cosa paradossale è che sapete perfettamente che, per esempio, in altre regioni invece questo interlocutore c'è, ma si tratta assolutamente della stessa cosa, e però a 100 km funziona e lì da voi no. L'esempio banale che posso portarvi è l'esempio di Capannori, dove c'è il mio amico Alessio Ciacci, che è riuscito a autorizzare in accordo con la provincia di Lucca una delle prime macchine identiche a quella del mio progetto, e semplicemente in accordo con la provincia hanno autorizzato in maniera molto semplice questa tipologia. E lui ce l'ha lì funzionante e lei non riesce nemmeno ad avere. No, io ho l'impegno di spesa per la prima macchina sperimentale a giugno 2012 e siamo ancora qua fermi. Allora Ambrosini, stia lì che io passo a Ignazio Nicola Finco, ci racconta la sua esperienza, Finco. Sì, diciamo che il tema della green economy è un tema molto complesso, perché non riguarda solamente il settore ambientale, ma diciamo riguarda tutti i settori, diciamo, anche della politica, ma anche del mondo dell'impresa, del mondo della scienza, della formazione. Certo. Io mi sto concentrando principalmente su tutto il settore della mobilità sostenibile, che penso rappresenti una delle sfide principali, soprattutto per quel che riguarda l'inquinamento atmosferico. Sto lavorando a un progetto di legge che preveda la realizzazione di una vera e propria infrastruttura elettrica in tutta la regione Veneto, questo attraverso il coinvolgimento dei comuni, quindi in tutte le nuove lottizzazioni, nelle riqualificazioni delle piazze, di parcheggi, di ogni luogo pubblico, prevedere l'installazione di colonnine elettriche, ma soprattutto lavorare anche con le varie municipalizzate che abbiamo nelle città capoluogo, proprio per creare dei punti di ricarica per rendere la struttura efficiente. La base è quella. E che problemi sta incontrando? Il problema specifico che ho incontrato a livello territoriale è proprio il rapporto con molti amministratori, locali, che purtroppo non credono ancora in questa tematica della green economy, quindi preferiscono affrontare tematiche più importanti come magari i lavori pubblici e l'urbanistica, e poi non si soffermano su questo settore. E un altro problema principale è l'accesso ai finanziamenti europei. Purtroppo manca una politica ambientale a livello italiano, e di conseguenza anche le regioni, ognuna sta operando per conto proprio, diciamo un po' a caso, senza una linea guida, e questo secondo me penalizza tutti, perché a cascata poi va a penalizzare province e comuni locali. Quindi manca una seria pianificazione a livello nazionale di quello che vogliamo fare. Lei nello specifico, quindi, se ne sta parlando proprio in questi giorni, vede non solo una incapacità di utilizzare tutti i fondi che si potrebbero ottenere dall'Europa, ma anche una scarsa capacità nel partecipare a questi progetti, nell'idearli, in modo da avere, come dire, una linea di attività comune. Insomma, siete un po' isolati, ogni pubblica amministrazione deve cavarsela da sola, mentre invece ci vorrebbe una visione un po' centrale. Chiaramente, anche perché purtroppo il nostro paese fatica a recepire le direttive europee, e di conseguenza ogni anno andiamo incontro a sanzioni che purtroppo ci vediamo arrivare da parte della Commissione europea, perché non rispettiamo determinate direttive per quel che riguarda, ad esempio, la tutela dell'atmosfera, per quel che riguarda la depurazione delle acque e tanti altri settori. Quindi ritengo ci voglia proprio un salto culturale grosso rivolto all'ambiente. Al volo chiedo ad Ambrosini, e prima e poi a Finco, ma come la vedete in un prossimo futuro? Nera oppure così così? No, io in linea di massima la vedo positiva per la qualità della classe dirigente che sta venendo su, specialmente dalle amministrazioni degli enti locali. Ci sta sono cambiando. Un sacco di giovani preparati. Finco lei è d'accordo con Ambrosini, insomma, avete fiducia in voi stessi a questo punto? Sì, ma anche perché comunque posso vedere dai dati che abbiamo noi come Regione Veneto che anche se la politica, diciamo, non sta facendo abbastanza, i cittadini e le imprese si stanno muovendo su questi settori. Solamente l'agricoltura biologica ha registrato nel 2012 qui in Veneto un più 4,2% e soprattutto sono imprese di giovani. Altri settori, vediamo imprese proprio che stanno investendo sulla riconversione industriale e sempre del 2012 abbiamo avuto quasi un 24% delle imprese che hanno investito su nuove energie. Vado a sentire Mirko Tuttino, grazie Ambrosini e grazie Finco. Grazie a voi. Buon lavoro. E ora ho in linea Mirko Tuttino. Buonasera Tuttino. Buonasera. Assessore all'ambiente della provincia di Reggio Emilia. Ci siamo sentiti che con lei prima trasmissione, mi pare, avendo sentito prima Ambrosini e Finco, che anche lì lei rileva un problema di difformità tra i possibili decisori per le autorizzazioni, no? C'è una roba del genere? Sì, sì. In particolare io seguo con attenzione il tema degli impianti idroelettrici, quindi della possibilità di realizzare centrali idroelettriche sui torrenti e sui fiumi. Sono impianti che apparentemente non hanno impatto e producono energia rinnovabile, in realtà influiscono molto sugli ecosistemi, perché intubare dei torrenti, dei corsi d'acqua a carattere torrentizio significa cambiare l'ecosistema di un territorio. Certo. E le autorizzazioni di questi impianti passano attraverso i comuni, le province e in particolare la regione. Il problema è che chi propone questi impianti passa 5-10 anni in attesa di una risposta. Gli impianti non si realizzano e non c'è un decisore politico titolato a dire sì o no. Il privato tante volte preferirebbe avere un no subito piuttosto che attendere 10 anni per avere delle risposte vaghe o richieste di integrazioni che mandano avanti nel tempo senza mai arrivare ad un'autorizzazione. Quindi davvero anche 10 anni per una centralina su un torrente? 10 anni? Cioè si può arrivare anche a di più. Noi abbiamo delle pratiche, poche per fortuna, che sono lì giacenti dalla fine degli anni 80, quindi 25 anni. Tra l'altro c'è la non concorrenziabilità di questi impianti che non possono avere dei concorrenti sui tratti di torrente nei quali sono già stati presentati dei progetti e quindi tutti i possibili proponenti, anche quelli che sarebbero più celeri e che potrebbero proporre progetti ancora migliori, sono bloccati alla faccia della concorrenza che ci chiede l'Europa. Tutto ciò è molto bello, allora se ha lì una bambina bendata e un cestello estragga a sorte un altro problema, ce lo racconti. Un altro problema, visto che mi occupo anche di gestione di pianificazione del servizio rifiuti, tra l'altro tocca un territorio vicino a noi, la città di Parma, che come probabilmente tutti sanno ha vissuto anche un cambio di amministrazione legato a un tema rilevante come l'inceneritore, che non deriva tanto da rallentamenti burocratici ma dalla capacità delle istituzioni di poter decidere loro le scelte che riguardano il territorio e non affidarsi semplicemente alle aziende gestori del servizio che hanno un know-how maggiore, hanno i tecnici, hanno gli ingegneri, hanno gli studi legali e fanno perdere la politica, e forse la politica vuole perdere, la capacità di avere l'ultima parola. Anche questo crea dei problemi nei processi decisionali di pianificazione di servizi ambientali importantissimi per un territorio, tant'è che a Parma si sono perse le elezioni, la mia parte politica ha perso le elezioni su questo tema. Certo, ce la ricordi perché l'abbiamo chiesto anche agli altri, lei è di che area? Centro-sinistra, Partito Democratico. Lei quello che ha appena detto è che da una parte abbiamo un problema che non si trovano interlocutori, dall'altra se ci sono non sono in grado di essere interlocutori validi, quindi diciamo proprio abbiamo chiuso il cerchio dal punto di vista dell'inefficienza. Assolutamente sì, io credo che l'Italia da questo punto di vista sia il paese con più problemi in Europa. C'è un punto che riguarda sia chi la vede in senso pubblicistico sia chi invece pone il tema della concorrenza. Questo significa, da un lato, perdere il controllo di ciò che si fa, perché comunque i rallentamenti e la non certezza dei decisori fa perdere il controllo delle decisioni finali, dall'altro limita gli spazi di concorrenza che in altre nazioni europee invece sono garantiti. Non si guarda la qualità, non si guarda la capacità di un progetto di rispondere anche dal punto di vista ambientale ad un territorio, ma purtroppo siamo in balia di altre dinamiche che sono quelle della pubblica amministrazione non sempre efficiente, di proponenti che non hanno le risposte e non sempre lavorano con la qualità che sarebbe opportuna. L'Italia è rallentata da queste cose. Mirko Tutino, ringrazio anche lei, il quadro è completo, insomma andiamo avanti, qualcosa succederà, cosa dobbiamo dire d'altro? Così non va bene però, così non va bene. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Che cosa ci fa uno sociologo in mezzo agli informatici? Stiamo per rispondere a questa domanda. Guardate che è una cosa molto seria, però la domanda è interessante. Il mio ospite è Nicola Doppio. Buonasera, Doppio. Buonasera. Allora, lei è un sociologo. Sì, diciamo che ho studiato sociologia e provo a fare il sociologo. Beh, si è messo in mezzo agli informatici. Siamo a Trento, siamo all'interno della cornice di Trento Rise, che è un'attività complessa fatta di tanti progetti, e mi pare di capire, Nicola Doppio, che dentro questa progettualità diffusa ci sono parecchie novità, e una di queste è proprio quella che stiamo discutendo adesso. Allora, non è solo lei, cioè c'è un team di gente che ha competenze di sociologia? Sì, esatto. Per ora siamo in quattro, ma abbiamo una capacità di crescita molto veloce. E abbiamo un background di tipo sociale e di marketing e comunicazione. E il nostro ruolo è quello di facilitare il coinvolgimento di cittadini, quindi persone normali, non come i ricercatori, tra virgolette, e gli informatici, e di trovare delle modalità per cui queste persone possano partecipare in maniera attiva ai progetti di ricerca e sviluppo e di innovazione che proponiamo noi. Questo è il punto su cui vogliamo concentrarci, e avviso gli ascoltatori, fate attenzione perché ci sono degli elementi di novità significative. Allora, lì a Trento state facendo un'attività che si fa anche da altre parti in tanti modi in questo periodo, e cioè ci sono dei programmi, dei software che sono utili perché possono svolgere dei servizi, no, per la gente. Tipicamente penso che molti avranno sentito parlare delle application, che poi si chiamano anche app e basta, in modo contratto, no? Sono quelle cose che con lo smartphone ci consentono di fare tante, tante cose, in relazione per esempio con servizi della pubblica amministrazione. Allora, questo è un lavoro di base classico, solo che voi, per capire come funzionano, in che modo si interfacciano queste cose con la gente, state cercando di costruire una modalità diversa. Perché, mi dica se sbaglio, tipicamente cosa si fa? Si forma un campione, no? Un gruppo che diventa un test, e gli si fa vedere un po' le interfacce e si capisce che tipo di reazioni hanno. Mentre invece il vostro progetto è più ambizioso. Esatto, quello che facciamo qui è che finora è stato fatto anche da altre parti, ma noi stiamo tentando di provare una strada diversa. Un po' diversa, è quello che si chiama Living Lab, o Living Labs, o progetti di Living Labs, cioè trasformare diciamo il territorio in un laboratorio. Ecco. Sì. Tipicamente quello che si fa invece è quello di chiamare le persone nel proprio laboratorio, come diceva lei, fare dei testing, provare a chiedere un contributo, diciamo, alle persone. Questo è quello che si fa, come dicevo fino ad ora. Noi stiamo provando invece a portare le attività di ricerca e sviluppo fuori, direttamente nel territorio, per esempio a casa delle persone, oppure nei luoghi di lavoro dove le persone già stanno utilizzando delle applicazioni, dei sistemi informativi che potrebbero in realtà essere migliorati da essi stessi, sia durante le proprie attività del lavoro, ma sia anche poi contribuendo al ciclo di ricerca e sviluppo che portano avanti i progetti che facilita e che finanzia Trento Rise. Questo vuol dire, per esempio, che a tutte queste persone, che cominciano a diventare anche tante, cercate di spiegare bene qual è il progetto, dove si vuole andare, come potrebbe essere importante un coinvolgimento della gente, non solo come cavie, no? Infatti, è la differenza che c'è tra i progetti di participatory design, cioè di design e sviluppo partecipato delle tecnologie e dei servizi, e i progetti che sono un po' più user driven, cioè guidati dalle volontà e dalle iniziative, dalle visioni degli utenti finali e dei cittadini. Quello che facciamo noi è tentare, con fatica, di provare a piegare talvolta gli obiettivi delle ricerche, dei progetti di innovazione con cui collaboriamo, anche sulla base delle volontà e delle sensibilità dei cittadini, che molto spesso hanno sul serio la capacità di contribuire al miglioramento di questi servizi finali, proprio perché sono loro gli utenti e loro sanno di che cosa hanno bisogno. E ne parlavamo appunto preparando questa intervista, e mi pare che appunto un esempio buono fosse questo, cioè voi che fate ricerca insieme appunto anche agli informatici che devono costruire poi l'oggetto, in realtà per fare le cose bene avreste bisogno di un rapporto continuativo, non tanto il test una tantum. Ed è qui che ci sarebbe un'enorme differenza, però bisogna che la gente partecipi a questa visione progettuale, se no, se sono semplicemente chiamati come delle scimmiette per partecipare a un test, non c'è questo grande entusiasmo. Sì, infatti, questo è un po' al di là dell'operatività dei singoli progetti. Il nostro compito, cioè quello che possiamo fare solo noi come sociologi o come persone che hanno un background sociale, tra ingegneri e tra persone che si occupano di business, è quello di, assieme ai cittadini, tentare a capire dove sta il valore di questa attività. E per valore non intendo soltanto il valore in termini economici, no, la ricchezza, ma il valore in termini etici, cioè perché dovrebbe essere giusto che ampi gruppi di cittadini, potenzialmente tutti i cittadini, dovessero partecipare ad attività di ricerca e di ricerca e sviluppo. Noi stiamo tentando di rispondere a questa domanda, lo stiamo tentando di fare assieme ai cittadini. Gente. Cioè, se dobbiamo avere degli oggetti, dei programmi, dei software che poi servono per vivere nella città, ma questi nascono da una popolazione che è consapevole intanto di esattamente di che cosa si tratta, consapevole in profondità, e poi anche, come dire, ha il piacere, l'emotività, che sono fattori importanti, e poi sa di avere le competenze in quanto cittadino, cioè gli è riconosciuto un ruolo fondamentale dentro il progetto, insomma mi immagino che voi possiate aspettarvi una qualità proprio migliore dell'oggetto che viene progettato. Guardi, tenga conto che una delle nostre attività l'abbiamo chiamata Smart Crowds, dove per crowd si intende una massa, un grande gruppo di persone, proprio perché l'idea di coinvolgere ampi gruppi di cittadini ti permette di fare delle cose che altrimenti nessun ente o organizzazione sarebbe in grado di fare, no? Certo. Pensi per esempio a Wikipedia, no? Chi mai sarebbe stato capace di fare una cosa del genere? Quando le persone vengono, si identificano con gli obiettivi, con le istanze di una certa azione progettuale, allora vedi che le cose dovrebbero possono cambiare. Contribuire con i propri sforzi fino in fondo, diciamo. Nicola Doppio, io la ringrazio. Non so se siamo riusciti mi pare di sì, a far capire questa differenza che è veramente grossa e che può avere una rilevanza consistente proprio nella progettazione del futuro, no? Proprio perché nasce in altro modo l'oggetto che in questo futuro deve muoversi. Poi, anzi, sono tanti gli oggetti, perché possono essere tantissimi i servizi. Va bene, lei ci tenga informato su come va. Ci interesserebbe anche capire quali sono appunto le reazioni delle persone chiamate a questo ruolo diverso, e ci sentiamo. Tra qualche mese ci sentiamo di nuovo. Buona ricerca. Grazie, buon lavoro. Sì, siamo arrivati alla conclusione. Ancora due parole sulle cose che avete appena sentito in questo ultimo servizio. Questo scenario, questo orizzonte nel quale anche delle tecnologie rispetto alle quali siamo abituati ad un rapporto interessato, anche a volte passionale, perché insomma ci diverte molto maneggiare degli strumenti come dei programmi software che ci vengono forniti, ecco, certamente, però il fatto che invece si stabilisca una relazione di tipo diverso, e cioè una relazione nella quale alla costruzione del modo in cui funzionano queste tecnologie, per esempio appunto questi programmi che possono diventare uno strumento quanto mai diffuso, per esempio proprio nella costruzione di città intelligenti, no? Di smart city. Noi qui a Radio 24 abbiamo una trasmissione dedicata a questo. Ecco, il fatto che ci sia una partecipazione di base molto motivata è qualcosa che ci sembra strano. Siamo abituati a pensare una cosa di questo genere in altri ambiti, ci sono tutte le imprese di tipo sociale, culturale, politico, nelle quali il coinvolgimento delle persone risulta evidentemente come un fattore creativo, un fattore di moltiplicazione degli effetti. Ebbene, dobbiamo provare a cominciare a pensare che qualcosa di identico, non uguale, insomma, qualcosa di analogo può produrre risultati molto più validi, più forti nella qualità di queste tecnologie se la gente è coinvolta molto di più in questo genere di progettualità. Ne parleremo senz'altro altre volte qui a Möbius. E allora adesso buona settimana a tutte e a tutti, ci sentiamo qui fra 7 giorni.